Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:09. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. I temi che toccheremo oggi, in una giornata nella quale, come avete sentito anche dai nostri giornali radio, i dati e le dichiarazioni ancora una volta e anche sul fisco sono molti, sono molti appunto i temi che toccheremo, a partire dalle questioni che riguardano l'Europa e la Grecia. Naturalmente in corso in questi minuti sta finendo la riunione in videoconferenza dei ministri delle finanze del G7 insieme ai banchieri centrali. Si sta cercando di fare un punto. Come sapete, il fuoco dell'emergenza sembra essersi spostato sulla Spagna. Ci sono forti pressioni sulla Germania perché c'è da qualcosa e ci sono le pressioni, lo avrete visto sulle prime pagine dei quotidiani italiani oggi, dopo le dichiarazioni di ieri della Casa Bianca, ci sono pressioni sull'Europa da parte degli Stati Uniti. Quindi qualche preoccupazione, più di qualche preoccupazione, inizia a circolare anche là, naturalmente. Poi parleremo di industria italiana. Oggi si è riunita l'assemblea di Federacciai. Ci sono i dati del settore, naturalmente i nuovi dati del settore, e avremo un'intervista con il nuovo presidente. Torneremo in Emilia per il terremoto e parleremo di queste disdette turistiche, ne parleremo con il ministro del turismo Piero Gnudi. Questi e altri temi, naturalmente, oltre alle parole che ascolteremo proprio tra un attimo del presidente della Corte dei Conti Giampaolino proprio sui temi fiscali. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le notizie in breve di oggi. Iniziando come sempre dalle materie prime e dall'oro nella fattispecie, oro stabile a $1,619 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, dopo un'apertura in lieve rialzo, il WTI a New York è a $84,12 al barile ed è in calo anche il Brent a $98,71. I dati sul fisco. Nei primi quattro mesi dell'anno, le entrate tributarie sono cresciute dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. Per un confronto omogeneo, dice il Ministero dell'Economia, si evidenzia che al netto dell'imposta sostitutiva una tantum sul leasing immobiliare di aprile 2011 c'è una crescita delle entrate tributarie sempre del 2,5%. Questo in piena recessione. E sempre sulle entrate tributarie ci sono i dati della Ragioneria dello Stato e sempre appunto del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. Le entrate sono sotto le previsioni, insomma, nonostante crescano appunto di un 2,5% e nonostante crescano mentre siamo in recessione, quindi mentre teoricamente ci sono meno consumi e quindi meno IVA che entra, ci sono aziende che riducono il fatturato e gli utili e quindi pagano meno tasse, comunque rispetto a quanto era previsto nel DEF c'è una differenza del 2,9%. Il che equivale a 3 miliardi e 477 milioni di euro. Interviene sul fisco anche il presidente del Consiglio, Mario Monti. A dir la verità, stanno uscendo in questi minuti proprio le dichiarazioni di Monti in un'intervista al settimanale Famiglia Cristiana. Dice: saremo ancora più duri contro l'evasione. Siamo stati criticati per essere stati troppo duri sul fronte dell'evasione fiscale e le assicuro che saremo ancora più duri in futuro. Dice ancora Monti, sempre a Famiglia Cristiana, siamo impegnati per l'80% del nostro tempo a rimettere in sicurezza un paese che è stato devastato dall'improvvidenza. Prima ancora di ricostruire, pensiamo di dover togliere relitti dal terreno. Il nostro è un paese disastrato. Gli viene fatta una domanda sul fattore famiglia, il quoziente familiare, ossia la possibilità che le tasse sul reddito vengano distribuite, vengano calcolate, il reddito venga calcolato sul numero dei componenti della famiglia e quindi le tasse che si pagano siano di meno. Per quanto riguarda il fattore famiglia, il ministro Riccardi si è detto favorevole, ma in questa fase economica lo considera incompatibile, costa tra i 17 e i 21 miliardi di euro, dice Monti. E ritorniamo sul fisco. C'è il dossier sulla finanza pubblica presentato oggi dalla Corte dei Conti. Dal 2007 al 2009 tra IVA e IRAP si registra un vuoto di gettito di oltre 46 miliardi di euro l'anno, quindi proprio di evasione parliamo. Il tasso di evasione è stato stimato in misura pari al 29,3% nel caso dell'IVA e al 19,4% per l'IRAP. E però segnala anche il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, al microfono della nostra Elisabetta Fiorito, a margine della presentazione: troppe tasse, c'è un rischio di avvitamento per la crescita. Senza dubbio la pressione fiscale è ancora molto alta nel nostro paese e per evitare che possa ulteriormente aggravarsi bisogna agire sulla crescita. È necessario appunto che siano dotati degli strumenti ai fini appunto di questa crescita, perché il nostro rapporto mette in evidenza come sul lato della spesa e dell'indebitamento anche rispetto al PIL vi sono stati dei progressi. Quello che invece non si è avuto è appunto questo di avere un aumento di strumenti che possono garantire una crescita che consenta lo sviluppo del paese, altrimenti si resta intrappolati in questo aumento di pressione fiscale che porta sempre più poi ad una recessione. Il gettito fiscale, dice ancora Giampaolino, è rimasto al di sotto delle previsioni, penalizzato dalla mancata ripresa dell'economia, un fenomeno non occasionale destinato a protrarsi per alcuni anni. E dunque, da dove si tirano fuori questi soldi che mancano, insomma, questi soldi che sono meno delle previsioni? Con la spending review, immaginiamo, con la cosiddetta spending review, la revisione della spesa e quindi il taglio delle spese stesse. Ebbene, su questo tema interviene oggi Giarda, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, mentre ancora attendiamo naturalmente vere e proprie conclusioni da parte di quello che dovrebbe essere il commissario alla Spending Review, Enrico Bondi. Dice Giarda: io mi auguro che sia possibile ridurre la pressione fiscale nel nostro paese, ma le condizioni nelle quali stiamo vivendo presentano una difficoltà maggiore di quella ipotizzata e si fa riferimento nella fattispecie al sisma in Emilia. Ed ecco la replica del presidente della Corte dei Conti, Giampaolino. Questi eventi così eccezionali, per altri considerati nella legge costituzionale di riforma, che appunto considera gli eventi eccezionali e quindi prevede forme di intervento anche ai fini di garantire gli equilibri di bilancio, senza dubbio incidono, ma io appunto è compito del governo quello appunto di reperire con eventuali spostamenti di provviste a che non si risolva in un ulteriore aggravio di imposte. A proposito di spending review, se vogliamo, o comunque di dati che sono stati diffusi oggi anche su questi temi piuttosto interessanti, ci sono quelli della CGIA di Mestre, che ci dice che tra il 2001 e il 2009 i dipendenti pubblici sono diminuiti di quasi 111.000 unità, la contrazione è del 3%, però la spesa per le retribuzioni in termini assoluti è aumentata di 39,4 miliardi di euro, del 29,9% dal 2001 al 2009. si dirà, non si tiene conto dell'inflazione. Al netto dell'inflazione la crescita è stata dell'8,3%, in termini assoluti 13 miliardi di euro. Ricca pagina anche di inchieste giudiziarie oggi che riguardano la finanza. La sede di New York di Standard & Poor's è indagata dalla procura di Trani per manipolazione del mercato. Un nuovo fascicolo stralcio che segue la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini notificato nei giorni scorsi a 5 persone, tra cui l'ex presidente di Standard & Poor's, Devin Sharma. Ed è indagata a Trani Maria Pierdicchi, l'amministratore delegato per l'Italia di Standard & Poor's. Posizione inviata per competenza alla Procura di Milano. È indagata per favoreggiamento degli analisti a cui la Procura di Trani ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Si diceva che la pagina è ricca, c'è anche la vicenda dell'operazione Brontos, la presunta maxi frode fiscale da 245 milioni di euro, che sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione di finanza strutturata da Unicredit. Il GUP di Milano Maura Marchiondelli ha rinviato a giudizio Alessandro Profumo, l'ex amministratore delegato, e altre 19 persone. Profumo replica: sono certo della correttezza del mio operato. Infine, sempre per la pagina giudiziaria, l'abitazione dell'ex presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi, uscito silurato, lo possiamo dire, pochi giorni fa, è stata perquisita su disposizione della Procura di Napoli. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'inchiesta su Finmeccanica. Da segnalare che Gotti Tedeschi non è indagato e la perquisizione non è legata all'attività da lui svolta allo IOR. Infine, due notizie al mondo dell'auto, in particolare da Fiat. C'è Sergio Marchionne, l'amministratore delegato, che ha ribadito per l'ennesima volta l'intenzione di rinviare il lancio di alcuni modelli di Fiat in Europa. Uscire ora con modelli nuovi sarebbe improduttivo, dice Marchionne. E a proposito del sisma in Emilia, di quanto sono state colpite le aziende, la produzione della Panda Pomigliano è sospesa per 3 giorni, da oggi fino al 7 giugno, per mancata fornitura di motori da parte di Fiat Powertrain di Termoli, la quale a sua volta si rifornisce dalla Magneti Marelli di Crevalcore, la cui attività non si è ancora completamente normalizzata. E veniamo al primo argomento di giornata, ossia la crisi. Anche se così vi potrà sembrare un po' generico, naturalmente ci riferiamo alla crisi dell'Eurozona nella fattispecie. Mi fate notare che non abbiamo dato i mercati, giusto? Mercati positivi oggi: FTSE MIB più 0,83%, FTSE O'Share più 0,81%, Parigi guadagna l'1,30%, Francoforte cede lo 0,03%, Londra è ancora chiusa, il Dow Jones guadagna lo 0,12%, il Nasdaq lo 0,41%. Poi verremo tra poco all'approfondimento dedicato. Due temi sono al centro di tutto. In queste ore la riunione dei ministri finanziari del G7 e dei banchieri centrali, da una parte, e collegato a questo il monito che è arrivato dalla Casa Bianca all'Europa. Insomma, c'è un po' di scetticismo sui passi intrapresi finora per fermare la crisi e anche su come i mercati stanno accogliendo questi passi, ammesso che questi passi ci siano stati. Saluto Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Buonasera Mario. Buonasera. Buonasera a Vittorio Darold, anche lui del Sole 24 Ore, che invece sta seguendo le vicende di questa riunione tra i ministri del G7. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Allora Vittorio, partirei proprio con te perché le ultime arrivano esattamente dalla riunione del G7. Abbiamo letto di una, almeno dalle indiscrezioni che filtrano dalle agenzie, di una Germania sotto pressione, o meglio pressata da tutti gli altri. Esattamente, sembra che appunto le prime indiscrezioni, perché non è previsto un comunicato ufficiale del G7 che è appunto fatto dal punto di vista telefonico, il G7 ha discusso, sembrerebbe, i progressi verso un'unione fiscale e finanziaria europea, quindi questo è appunto quello che dagli Stati Uniti sembra la pressione maggiore, quindi per spingere la Merkel a fare delle concessioni che poi portino a questo collettivizzazione del debito e quindi verso una soluzione di Eurobond e in cambio a un maggiore controllo sull'unione fiscale. Ci sono anche altri temi sul tappeto, si è discusso naturalmente delle prossime elezioni in Grecia, questo lo ha detto appunto il ministro delle finanze giapponesi, si è parlato della Grecia, del voto del 17 giugno, non si è parlato della eventualità dell'uscita della Grecia dall'euro, semplicemente del fatto che questo voto potrebbe in qualche modo rivedere il piano di aiuti, perché come voi sapete una parte dei partiti, cioè il partito della sinistra radicale Siriza, chiede di rivedere il piano di aiuti e di renderlo più lungo nel tempo, meno quindi severo, quindi di avere un'austerità meno severa che abbia un impatto inferiore in un paese che è già piegato da 5 anni di recessione. Questi sono i temi quindi all'ordine del giorno. Tra l'altro, come si diceva poco fa, il fuoco si sta spostando sulla Spagna. Il ministro del bilancio Cristobal Montoro, in un'intervista con una radio, Cinco Dias, dice che il premio di rischio indica che la Spagna non ha le porte aperte ai mercati. Come paese abbiamo un problema ad accedere al mercato quando dobbiamo rifinanziare il nostro debito e chiede la Spagna fondi europei per le banche. Salterei adesso dall'altra parte dell'oceano, appunto a New York, da Mario Platero, per capire questo accentuarsi della pressione americana nei confronti dell'Europa, alla quale tra l'altro risponde con una certa brutalità il ministro degli esteri francese Laurent Fabius, che dice: non ha senso rinfacciarsi le responsabilità gli uni con gli altri, non mi risulta che la crisi sia cominciata in Europa, Lehman Brothers non era una banca italiana né francese. Come mai questo incremento di pressione, Mario? Ma guarda, io credo, consentimi, che sia più uno sviluppo mediatico che non uno sviluppo reale. Fabius, devo dire, fa dei commenti che ormai non hanno molto senso nel contesto della situazione attuale. Sono passati molti anni da Lehman Brothers, l'Europa aveva avuto tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, ha scelto una strada diversa, ha scelto la strada dell'austerità invece di scegliere la strada dell'accomodamento monetario e fiscale come hanno fatto gli Stati Uniti, quindi c'è stata una politica divergente, gli Stati Uniti oggi hanno una crescita così debole, però comunque crescono, comunque riescono ad avere nuova occupazione, quindi archivierei la polemica Fabius che mi sembra totalmente fuori luogo. Per ciò che riguarda le pressioni americane, quelle ci sono, devo dirti che secondo me ieri Jay Carney non ha detto nulla di nuovo, in realtà è stato un normale briefing alla Casa Bianca in cui a una domanda ha semplicemente detto ci aspettiamo che l'Europa faccia di più, un ritornello che ascoltiamo dall'America ormai da molti mesi, lo ascoltiamo anche da fonti più autorevoli di Jay Carney, cioè dal presidente Barack Obama in persona, da numerose audizioni del governatore della Banca Centrale Bernanke e dal segretario al tesoro Tim Geithner. Non credo che ci sia stata un'alzata di tiro come alcuni giornali italiani, mi sembra peraltro gli unici al mondo, abbiano sottolineato nelle loro edizioni di questa mattina. C'è un ritornello, perché? Perché torniamo a quel che dicevo prima, l'America preme per una scelta politica da parte europea che prema sull'espansione, che prema sull'accomodamento, cioè è più importante la crescita dell'inflazione, è più importante andare avanti che andare indietro. Su questo, come sappiamo, c'è un dibattito feroce, Vittorio Darold ricordava come la Germania resiste, la Germania è il grande alfiere dell'austerità da sola contro tutti, però direi che è una differenza filosofica di fondo. Secondo me l'Europa dovrebbe in effetti muoversi, le preoccupazioni americane ci sono, sono giustificate, perché il rallentamento europeo in questo momento sta creando un rallentamento mondiale, ed è questo che poi ha detto Carney, dice: da questa crisi europea sta emergendo un problema di economia globale, non soltanto di economia europea. Abbiamo visto in Cina dei dati piuttosto preoccupanti, il PMI al 50,2, che è un dato piuttosto basso, è uscito la settimana scorsa, qualche giorno prima la produzione industriale era diminuita dal 49,3 al 48,2, insomma, se anche il locomotore cinese comincia a rallentarsi ci sono preoccupazioni. In America abbiamo visto un tasso di disoccupazione al rialzo dall'8,1 all'8,2%, ma soprattutto abbiamo visto un dato sui nuovi occupati dipendenti di 69.000 nuovi occupati contro i 155.000 attesi. Qualcuno comincia a parlare di recessione, è chiaro che l'America si preoccupa, è chiaro che nelle dichiarazioni di Carney c'è un elemento strumentale di politica interna. Sì. Il 6 novembre ci sarà l'appuntamento elettorale, se l'economia continuerà a peggiorare per Obama, che è già in difficoltà, beh, insomma, le cose potrebbero farsi difficili. Ovviamente. Nel ringraziare Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, un'ultima domanda, ti chiedo di essere piuttosto breve, per Vittorio Darold, invece il punto sulla Spagna, si è fatto e quanto approfonditamente, oppure il ragionamento è affrontiamo un problema per volta, cioè prendiamo la Grecia e... Effettivamente la Grecia in qualche modo sta influenzando il fatto spagnolo, cioè il timore di un possibile appunto contagio alla Spagna sta creando una maggiore tensione su quel fronte. Il fronte spagnolo è eminentemente bancario, hanno bisogno di rifinanziare, di ricapitalizzare le banche spagnole, ma questa uscita del ministro del bilancio Montoro, che dice appunto che in sostanza l'accesso ai mercati per ora è chiuso per la Spagna, va interpretato, probabilmente lui voleva dire l'accesso per ricapitalizzare le banche spagnole non è appunto in questo momento opportuno, e questo è perché Madrid vuole che il fondo salva stati possa dare direttamente alle banche questo aiuto, perché in questo momento invece per un sistema europeo di governance europea che non è ancora adatto, i flussi di capitale dovrebbero passare dal fondo salva stati a uno Stato e dallo Stato alle banche. Questo passaggio implica però che lo Stato debba in qualche modo chiedere aiuto, ma se chiede aiuto lo Stato, sembra quindi che lo Stato, cioè la Spagna, non possa affrontare il debito, e cosa che non è. Ecco perché va un po' rapidamente divisa la questione e affrontato il problema dei depositi, del controllo europeo per le banche, perché altrimenti si rischia veramente di creare un contagio sempre maggiore. Chiarissimo, chiarissimo. Nel frattempo, mentre tu parlavi di richieste d'aiuto da parte dei paesi europei, arriva la dichiarazione proprio del premier spagnolo Mariano Rajoy, che invita l'Europa a sostenere i paesi in difficoltà. L'Europa deve dire in quale direzione sta andando, che l'euro è un progetto irreversibile, non a rischio, e deve appunto, dice, sostenere i paesi in difficoltà. Ringrazio anche Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Noi adesso chiudiamo questa prima parte. Vi ricordo che tra l'altro domani sul Sole 24 Ore prosegue la questione del manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, il conto alla rovescia per il vertice europeo del 28 giugno. E non solo questo, naturalmente ci trovate anche un SOS IMU, come muoversi e se si ha diritto all'esenzione, e poi una guida per gli esodati, i 7 percorsi per proteggersi. Le 17:37 minuti e 28 secondi. Ci dite, ci fate notare, oltre ad esprimere un certo scetticismo non mal riposto, a dire il vero, sulla spending review, al punto nel quale siamo arrivati, insomma, sulla revisione della spesa. Ci fate notare che nessuno dice che il Nasdaq è ai massimi da 12 anni. C'era arrivato effettivamente, aveva superato i 3.000 punti, oggi siamo a 2.767, in questo momento 2.765 punti. Da dire che nell'ultimo anno la crescita è stata di poco meno di un punto percentuale, quindi comunque anche a quello che bisogna guardare, naturalmente al breve termine. Dunque, restiamo sui temi europei, ma lo facciamo con le dichiarazioni raccolte poco fa dal nostro Sergio Nava, dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, poco prima del suo ingresso all'assemblea di Federacciaio. Sentiamo. Per salvare l'Europa bisogna muoversi nella direzione degli Stati Uniti d'Europa, con i 5 punti che ho già indicato: una banca centrale con veri poteri di banca centrale, fisco, welfare coordinati nei paesi aderenti all'euro, e un coordinamento delle politiche per le infrastrutture e per l'energia. Ecco, queste sono le 5 condizioni che servono per tenere insieme l'euro e per tenere insieme l'Europa, per fare qualche passo in direzione degli Stati Uniti d'Europa, che secondo me deve essere il nostro futuro. Così il presidente di Confindustria sulla situazione europea. Si è parlato anche della valuta, ossia dell'euro, e poi anche del sisma in Emilia. Sentiamo. Le monete poi sulle esportazioni incidono fino a un certo punto, perché conta è la qualità dei prodotti, la capacità di fare innovazione, la capacità di competere in generale nel mercato globale, e questo l'Europa ce l'ha indipendentemente dai tassi di cambio entro certi limiti. Non dimentichiamo che abbiamo avuto anche periodi in cui l'euro è arrivato a 1,50 sul dollaro, o periodi in cui era 0,86, quindi e le bilance commerciali non è che si erano spostate tantissimo. La Spagna ha annunciato che chiederà ricapitalizzazioni per le banche da parte dell'Europa. Siamo un passo ulteriore verso un inasprimento della crisi? Io penso che prima bisogna essere sicuri di tenere dentro la Grecia, tutto il resto viene dopo, poi ci ragioniamo dopo. Pare che il credito d'imposta per investimenti, ricerca e innovazione possa saltare nel decreto sviluppo. Se questo avvenisse, qualcosa vi preoccupa? È una cosa estremamente preoccupante, che vuol dire che non c'è la vera volontà vera di fare gli investimenti, che il paese non è capace di fare gli investimenti che servono per la ripartenza. Tendete a fare pressioni sul governo? Beh, sicuramente noi siamo in totale disaccordo con una posizione di questo genere. Un'ultima cosa sull'Emilia-Romagna: c'è questa notizia di aziende, almeno si parla di un'azienda che starebbe facendo firmare liberatori ai lavoratori per andare a lavorare. Non è una vostra associata, però in ogni caso condannate questi atteggiamenti? Beh, certamente, se ricordate, io ieri l'ho detto con molta precisione: ripartire subito, ma in sicurezza. Quindi la prima considerazione deve essere la sicurezza. Dunque, restiamo sul tema dell'Emilia, mentre ci fate notare al 349-238-6666 che tutti i meccanismi che si stanno ipotizzando, anche quelli di salvataggio delle banche spagnole, sono piuttosto contorti. Sì, oggettivamente sì. Del resto sono anche questioni complesse, però insomma che sia piuttosto contorta l'Unione Europea in questo periodo mi sembra che non ci siano dubbi. Restiamo sull'Emilia. Si diceva in queste ore, abbiamo parlato a lungo delle imprese piegate dal terremoto, tra queste naturalmente ci sono quelle turistiche. Nei giorni scorsi si è diffusa la voce, e poi insomma confermata anche dalle autorità, di una serie di disdette che stavano arrivando anche nella riviera che non è stata toccata dal sisma. E quindi parliamo di questo con Piero Gnudi, ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, che tra l'altro si trova a Tunisi per la firma di un accordo con la Tunisia. Parleremo anche di questo. Buonasera, ministro. Buon pomeriggio. Allora, iniziamo proprio dalla questione del terremoto. C'è una certa preoccupazione tra gli operatori turistici della zona e addirittura tra gli operatori turistici della Riviera. Mi sembra di aver capito che però dal punto di vista economico il governo non abbia intenzione di intervenire. Ma vede, le strutture turistiche della zona non è che abbiano avuto danni, perché nella zona quelle non sono zone che abbiano particolare vocazione turistica. Però le città d'arte e soprattutto la Riviera non hanno avuto danni e sono assolutamente fruibili dal punto di vista turistico. Il problema è dare una corretta informazione, perché purtroppo quando anche i mass media danno quelle notizie sul terremoto parlano genericamente di Emilia, ma l'Emilia è grande, quindi ci sono zone che hanno avuto purtroppo questo tragico terremoto, ma gran parte dell'Emilia non è stata toccata, e soprattutto non è stata toccata la parte dell'Emilia che più ha vocazione turistica. Quindi l'obiettivo, mi sembra di aver capito, è quello di fare una campagna di informazione verso l'estero. Quando partirà e come è strutturata? La facciamo sia in Italia, perché purtroppo questa generalizzazione viene fatta anche in Italia, e anche sull'estero. Abbiamo dato istruzione a tutte le nostre, tramite il Ministero degli Esteri e le ambasciate, di far sì che nei siti delle ambasciate e soprattutto dei Ministeri degli Esteri sia dato l'esatto perimetro delle zone interessate dal terremoto. Poi stiamo facendo una campagna di informazione sia tramite i giornalisti stranieri presenti in Italia, sia anche attivandosi nei singoli paesi. Questo è il quadro della campagna. Abbiamo parlato di Emilia, adesso vorrei parlare del motivo per il quale lei si trova a Tunisi. Oggi avete firmato un accordo per rafforzare la collaborazione in materia di turismo tra i due paesi e stabilire un piano di cooperazione. Ma quello che mi chiedo è che tipo di cooperazione e che tipo di collaborazione in materia di turismo possono avere due paesi come la Tunisia e l'Italia? Noi abbiamo un grande interesse che il turismo nei paesi dello sfondo sud del Mediterraneo, soprattutto in Tunisia, vada bene, perché in queste zone costituisce una larga parte del loro prodotto interno lordo. Quindi vogliamo dare aiuto tramite soprattutto formazione, vogliamo che tramite i nostri istituti che fanno formazione turistica prendere dei giovani e formarli al turismo. Perché nel turismo è uno di quelle settori di attività che, nonostante la gente non ci dà quella dovuta attenzione, la formazione è assolutamente importante. Però a questo punto ci si chiede, Ministro, che cosa ne viene all'Italia da questo rapporto di collaborazione? Noi offriamo formazione e la Tunisia che cosa ci offre? Ma sanno, quando si parla di rapporti fra paesi non si può essere un doves così. Cioè, noi abbiamo interesse che questi paesi si consolidino dal punto di vista economico, perché è molto meglio avere un vicino che è in pace ed è tranquillo che avere un vicino che ha dei problemi. C'è un piano di investimenti per questa formazione, un'idea di quanto l'Italia sia disposta ad investire? Sì, non si tratta di grandi cifre, si tratta di pigliare qualche decina di ragazzi a portare in Italia e far studiare presso le nostre scuole. Sì, non è che stiamo parlando. Però io credo che con questa strada riusciamo a fargli crescere il turismo, che per loro, come dicevo prima, è una delle fonti più importanti del loro reddito nazionale. Grazie al ministro Piero Gnudi, ministro per il turismo e lo sport, e buonasera. Grazie. Ci scrivete ancora a proposito del terremoto, ma lo sapete che i Magneti Marelli di Crevalcore stanno trasferendo gli impianti a Bari. In realtà è una notizia che è circolata nei giorni scorsi, poi questo fatto non è avvenuto. La produzione, da quel che ci risulta, almeno da quel che ci risulta, i Magneti Marelli sta riprendendo a Crevalcore. Tant'è vero che la stessa Fiat ha comunicato che lo stop durerà 3 giorni, lo stop della produzione di Pomigliano. Abbiamo omesso, ma insomma poi ci torneremo più approfonditamente tra un attimo, a proposito di mercati che hanno chiuso positivi, tra l'altro col FTSE MIB in guadagno dello 0,63%, ebbene le altre borse, di parlare dello spread a 443 punti. Giornata nel complesso positiva, almeno per quanto riguarda Milano. In realtà ha due facce se si guarda il resto d'Europa. Francoforte cede lo 0,15%, positiva a Parigi dell'1,07%. Londra nella giornata di oggi era chiusa, Atene ha chiuso con un altro calo pesantissimo intorno al 5%. Livia Zancaner di Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Che giornata è stata dunque? Sì, allora come dicevi tu è stata una giornata a due facce, sicuramente vissuta all'insegno del nervosismo. Dalla conference call tanto attesa tra i leader dei paesi del G7 su una risoluzione della crisi del debito non sono emerse particolari novità e quindi i mercati sono sempre in attesa domani della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi e anche sono in attesa della riunione della Commissione Europea che discuterà su possibili piani di aiuto alle banche anche attraverso fondi di risoluzione bancari nazionali, quindi diciamo una seduta sostanzialmente vissuta nell'attesa di quello che poi emergerà dalle varie riunioni di domani. Quindi in parte interlocutoria, così potremmo definirla. Allora, partirei dal titolo peggiore di oggi, che è Telecom Italia, che ha lasciato sul terreno un quasi 5,5%. Come mai? Sì, allora Telecom ha risentito oggi di vari timori e di varie voci sulla società, in particolare sui timori che riguardano vari fattori, tra cui la possibile cessione di azioni da parte dei soci di Telco, che la holding controlla il 22,5% circa del capitale di Telecom, e anche sui rischi su un possibile taglio del dividendo negli anni futuri, come annunciato questa mattina dalla concorrente francese France Telecom a penalizzare il titolo. Inoltre sempre la notizia che il prossimo 15 giugno Telecom uscirà dall'indice Stoxx, la modifica sarà efficace poi da lunedì 18, quindi comunque il titolo oggi ha risentito di una serie di fattori e ha perso oltre il 5%. E veniamo sempre per i titoli in negativo all'Ottomatica, un calo del 3,9%, e qua si parla, visto che evidentemente non abbiamo parlato abbastanza di fisco in apertura di trasmissione, ancora di tasse. Sì, infatti l'ipotesi che ha penalizzato il titolo è quella che il governo possa introdurre nuove tasse sulle vincite al gioco per finanziare la ricostruzione delle zone colpite dai recenti terremoti. Vi sono state indiscrezioni su una rimodulazione delle tasse sulle vincite che dal 1 gennaio di quest'anno è pari al 6%, sulle vincite superiori a 500 euro del lotto, Superenalotto e lotterie istantanee, quindi si pensa che le società appunto come l'Ottomatica possano risentire dell'introduzione di nuove imposte. Sempre restando sui singoli titoli, abbiamo la Popolare Emilia Romagna che scende del 3,21%, in realtà in un quadro che ha visto le banche ampiamente positive. Il Monte dei Paschi ha guadagnato il 6,5%, la Popolare di Milano il 2,62%, Unicredit il 2,38%, il Banco Popolare 1,5%, Intesa San Paolo l'1,33%. C'è un qualche motivo particolare? Motivi particolari non ce ne sono, possiamo semplicemente ricordare che nell'ultima sedute il titolo ha guadagnato molto e probabilmente oggi qualcuno ne ha approfittato per trarre profitto, ma novità appunto non ce ne sono. Ci sono notizie invece che riguardano Snam, che oggi ha perso lo 0,98%. Sì, la notizia è che la società emetterà obbligazioni fino a 8 miliardi di euro entro giugno del 2013. In realtà, secondo gli esperti, l'operazione sarebbe favorevole, ma comunque gli stessi analisti si riservano di esprimersi in modo definitivo dopo che saranno annunciati i rating attribuiti ai titoli obbligazionari, quindi comunque anche in questo caso il mercato è in attesa. Sul fronte sempre degli energetici, A2A e Enel Green Power, male la prima, bene la seconda. Sì, qui i titoli hanno risentito dei rischi su una caduta dei prezzi dell'energia, è stata premiata e nel Green Power, che secondo gli analisti dopo lo storno recente sconta già ormai uno scenario particolarmente negativo e quindi ci sono possibilità di crescita per il titolo. Per quanto riguarda A2A, A2A è invece penalizzata poiché il debito è elevato e la società e la municipalizzata più esposta alla power generation, cioè alla generazione di elettricità, dove vi è il maggior rischio di una riduzione dei prezzi, quindi il titolo ne è risentito. Allora, prosegue l'andamento positivo di Generali, un più 3,97%, tra l'altro abbiamo forse omesso di ricordarlo, in realtà no, perché lo facciamo ora che oggi è scomparso Antoine Bernheim, come sapete, banchiere francese, 87 anni, era presidente onorario delle Generali, dopo essere stato presidente della compagnia di Trieste per 8 lunghi anni, dal 2002 e il 2010. Figura insomma assai nota e si era dovuto far da parte a favore della stagione di Cesare Geronzi. Generali comunque ancora bene, un più 4%, sempre l'effetto di Greco. Sì, Generali, ricordiamolo, ha guadagnato quasi il 10% nelle ultime 4 sedute. Il mercato è sempre in attesa e scommette sui benefici che deriveranno dal cambio di strategia che potrà essere adottata per il gruppo assicurativo dal nuovo numero uno Mario Greco. In particolare, sottolineano gli operatori, Generali dovrà compiere una serie di dismissioni anche per far fronte ad alcuni impegni in scadenza nel 2014, quindi comunque c'è sempre una forte attenzione nei confronti del titolo. Cade a fagiolo, come si dice, la domanda di Stefano che ci chiede che si dice sulla vendita di Anton Bene da parte di MPS. Insomma, proprio sulla questione delle cessioni credo che si sia mossa oggi il Monte dei Paschi, no? Sì, assolutamente sì, il titolo ha guadagnato il 6,5%, beneficiando anche del buon andamento delle banche. Vi sono appunto indiscrezioni su un'eventuale vendita agli sportelli di Anton Veneta a Deutsche Bank, operazione che riguarderebbe in particolare 150-200 sportelli su complessive 450 filiali Anton Veneta, quindi comunque vi è il mercato che scommette sull'annuncio di imminenti cessioni per raccogliere, ricordiamolo, il miliardo di euro richiesto dall'autorità bancaria europea, l'EBA. Gli ultimi due, in breve, Unipol e Fonsai, o meglio gli ultimi tre, però Unipol e Fonsai, dico due perché Unipol e Fonsai li mettiamo insieme, brevissima Livia. Sì, allora Fonsai ha guadagnato 1,67% e ha chiuso in positivo anche Unipol, che ha guadagnato oltre il 2%. Oggi è in calendario il consiglio di amministrazione di Unipol sui concambi dell'operazione, operazione che sembra finalmente in dirittura di arrivo. E ancora più breve, Impregilo. Sì, Impregilo ha chiuso in positivo, ha guadagnato il 4% circa in attesa della nomina di Palenzona a presidente dopo l'arresto, ricordiamolo, di Massimo Ponzellini. Il titolo ha beneficiato anche della notizia relativa all'incasso dei 355 milioni per il trasferimento dell'impianto di Acerra. Le 18, 7 minuti e 8 secondi di nuovo. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Bentornati per la seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666, il numero per i vostri sms, come sempre. Giusto per ricordarlo a chi si fosse messo in ascolto adesso, la giornata di borsa è stata positiva, con il FTSE MIB in guadagno dello 0,63% e il FTSE All Share dello 0,62%. Bene hanno fatto le banche. Non così Francoforte, giù dello 0,15%, bene Parigi su dell'1,07%, Atene in calo di 5 punti percentuali anche nella giornata di oggi. In tutta questa situazione naturalmente si continua a parlare delle mosse e dei problemi della finanza pubblica italiana. Oggi ci sono stati dei dati interessanti ed è di questo che parliamo ora. Questa mattina, come già si diceva, ci sono stati quelli della Corte dei Conti. Dal 2007 al 2009, dice il presidente della Corte, Giampaolino, tra IVA e IRAP si registra un vuoto di gettito di oltre 46 miliardi di euro l'anno. Si dice contemporaneamente troppe tasse, c'è un rischio di avvitamento della crescita, mentre proprio sull'evasione fiscale interviene il presidente del Consiglio Monti. Dice: siamo stati criticati per essere stati troppo duri sul fronte dell'evasione fiscale, le assicuro che saremo ancora più duri in futuro, dice a un giornalista di Famiglia Cristiana che lo ha intervistato. E poi soprattutto ci sono i dati del Ministero dell'Economia, diffusi oggi sul fisco. Nei primi quattro mesi del 2012 le entrate tributarie sono cresciute dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. Però al netto dell'imposta sostitutiva una tantum sul leasing immobiliare di aprile 2011 la crescita è del 2,5%. E però non basta. Perché non basta? Perché le entrate sono inferiori del 2,9% rispetto alle previsioni annuali contenute nel DEF, il documento di economia e finanza. Si tratta di 3,4 miliardi di euro. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E grazie per averci raggiunto. È un buco? È un buco di 3,4 miliardi questo, Dino? Te la chiedo proprio brutale. Allora, tecnicamente sono minori entrate che vengono registrate e contabilizzate rispetto alle previsioni fatte solo un mese fa. Quindi è certamente rispetto alle previsioni un buco da colmare. Allora, ci sono vari modi per colmarlo. Ce n'è uno che è quello, diciamo, auspicabile, e che nella seconda parte dell'anno, anche per effetto del gettito dell'autotassazione, normalmente il mese di giugno e quello di novembre sono i mesi più propizi per il fisco, si riesca attraverso, diciamo, un maggior gettito a recuperare questa flessione. Se per caso così non fosse, bisognerebbe correre ai ripari per garantire rispetto delle previsioni, perché evidentemente un minor gettito vuol dire un maggior fabbisogno equivale a un deficit in aumento. Potrebbe anche essere questa una soluzione, cioè quella di decidere di far lievitare il deficit oltre l'1,7%, meno ovviamente 1,7% previsto dal governo. Ci si potrebbe spingere anche verso il 2%, e devo dire che questa al momento mi sembra l'ipotesi più credibile, non a caso è proprio la previsione della Commissione Europea, quella che quest'anno il nostro deficit sia del 2%, e peraltro non sarebbe nemmeno un buco clamoroso. Importante è riuscire a mantenere gli impegni per il pareggio di bilancio nel prossimo anno. Se tutto questo non avvenisse, bisogna correre ai ripari attraverso, diciamo, una correzione che dovrebbe però a questo punto avvenire solo sul fronte della spesa. Sì, quindi diciamo sembra piuttosto improbabile che il governo possa procedere a fronte di questi 3,4 miliardi mancanti, anche se siamo, come dire, proprio all'inizio, nel senso che la notizia è arrivata oggettivamente questo pomeriggio, e quindi non è di indiscrezioni che stiamo parlando, ma stiamo semplicemente ragionando. Lo ricordiamo con Dino Pesola, che è una persona che si occupa di conti pubblici ormai da tempo immemore. Da quanto tempo, Dino? Diciamo almeno da oltre 20 anni. Da oltre 20 anni. Si stanno semplicemente facendo i ragionamenti. Sembra difficile che il governo, insomma, possa intervenire con una nuova correzione a livello fiscale, insomma, anche perché i livelli. Dunque, il discorso è puramente questo, e l'ha detto con molta chiarezza il presidente della Corte stamattina, Giampaolino, peraltro confermando dati che noi abbiamo segnalato più volte. Le tre manovre correttive dello scorso anno, tre manovre, lo ricordo, quindi non solo la manovra cosiddetta Salva Italia del governo Monti, ma anche quella di luglio e agosto del governo Berlusconi, equivalgono a una correzione netta, se proiettata al 2014, di oltre 80 miliardi, è una delle manovre più corpose della storia italiana. Il punto qual è? È che ben il 66%, e questo l'ha detto stamattina la Corte, di questi 80 miliardi si deve un aumento della pressione fiscale, che non a caso, secondo quanto il governo stesso ci ha detto un mese fa nel DEF, appunto il famoso documento di economia e finanza, si avvia a toccare il 45,4% del PIL, che è una pressione fiscale mostruosa, enorme per un paese peraltro che ha un'evasione fiscale di 120 miliardi l'anno. Vuol dire che chi paga le tasse regolarmente è costretto a un surplus di prelievo fiscale abnorme. Allora, tutto questo equivale a una stortura del sistema che va riequilibrata rapidamente, anche perché se la pressione fiscale resta a questi livelli il rischio è quello che la stessa Corte dei Conti chiama avvitamento, e cioè l'economia non riparte perché sono troppe tasse, se l'economia non riparte bisogna fare altre manovre e le altre manovre sono recessive, che danno appunto l'effetto che noi abbiamo appena commentato, e cioè che mancano le entrate. Quindi per uscire da questo circolo vizioso, come lo definisce la magistratura contabile, bisogna fare rapidamente una revisione della spesa, cercare di evitare a tutti i costi l'aumento dell'IVA che dovrebbe scattare il 1 ottobre, e assolutamente no, nessuna manovra correttiva, soprattutto se ipotizzata anche lontanamente nella mente di qualche tecnico, ancora una volta sul fronte del fisco, perché a questo punto sarebbe, come dire, un suicidio collettivo. Sì, battuta di un ascoltatore al 349-238-6666 dice: beh, che problema c'è se c'è il buco? Si alza l'accisa della benzina e il problema è risolto, insomma, che più o meno come si è proceduto finora. Ci chiede un altro ascoltatore invece se il recupero dell'evasione è contabilizzato, questione ormai vecchia, diciamo, per quelli che sono i tempi italiani, insomma, di rapidità di ricambio politico, mettiamola così, però insomma mi sembra già risolta. No, non si può contabilizzare, no? No, devo dire, da questo punto di vista il governo Monti ha fatto una scelta del tutto condivisibile, ha potenziato gli strumenti anti-evasione, ma non ha cifrato nulla nelle manovre correttive per effetto del gettito ipotizzato. Quello che si sa è quello che è stato recuperato nel 2011 ed è quello che ha comunicato 2 mesi fa l'Agenzia delle Entrate, dicendo che erano stati incassati 12,1 miliardi in più. Lì dentro, per la verità, c'è un po' di tutto, c'è il recupero dell'evasione, ci sono anche somme che si devono alla normale attività di accertamento e soprattutto alla capacità del fisco oggi di riscuotere molto di più rispetto al passato. C'è dentro tutto questo, comunque è una buona notizia che si siano recuperati 12 miliardi. Per l'anno in corso si spera di fare almeno altrettanto, e solo a consuntivo, e vale a dire a dicembre, quando queste somme saranno state acquisite in bilancio, si potrà decidere come utilizzarle, se utilizzarle come in parte obbliga anche la manovra dello scorso anno, a riduzione del deficit, se in parte riduzione del deficit o auspicabilmente anche a riduzione delle tasse. Questo però lo si potrà vedere solo a fine anno. La risposta alla domanda è: no, non sono state contabilizzate, ed è giusto che non lo siano, perché se poi a fine anno si stima a 10 e se ne incassano 5, a quel punto c'è qualcosa che non va. Grazie Dino Pesole per essere stato con noi e averci aiutato a capire quello che insomma questa discrasia, questa differenza che c'è tra le entrate attese e insomma quello che è effettivamente entrato nei primi 4 mesi dell'anno, e soprattutto quali possono essere le soluzioni che saranno adottate dal governo. Anche qua ovviamente vedremo che cosa succederà e quali saranno le dichiarazioni delle prossime ore. Grazie ancora Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. E dunque parliamo di industria dell'acciaio. Oggi l'assemblea annuale appunto dell'associazione che riunisce l'industria italiana del settore, 150 imprese del settore appunto, a cui fa capo il 95% della produzione nazionale, 65.000 addetti, il fatturato è circa 40 miliardi di euro, l'Italia come produzione è la seconda in Europa dopo la Germania. Nei primi quattro mesi del 2012 l'Italia ha prodotto 9,8 milioni di tonnellate di acciaio, con un aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma nel solo mese di aprile la produzione è stata di 2,4 milioni di tonnellate, il calo del 3,2% rispetto all'aprile 2011. Assemblea che ha nominato il nuovo presidente Antonio Gozzi, che è in studio con noi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, gli ascoltatori. Tra poco verremo anche ai temi che riguardano più strettamente le richieste che hanno gli industriali nei confronti del governo e l'attenzione che pongono ad alcune cose, come per esempio il piano infrastrutture proposto dal ministro Corrado Passera. E però vogliamo partire dalla posizione che Federacciai, che lei esprime per quanto riguarda l'industria italiana, visto che appunto oggi ne stiamo parlando parecchio. E quest'idea che il manifatturiero italiano sia una sorta di patrimonio europeo da conservare, che cosa intende? Beh, intendo riconoscere la verità. Questo capitalismo italiano, fatto di un'industria diffusa, export-oriented, in cui le famiglie sono molto presenti e sono capaci di tenere anche nei momenti di crisi. Questo è un esempio per tutta l'Europa, perché quando in Europa si parla di reindustrializzazione, io credo che se si vuole tradurre in fatti concreti questo termine di reindustrializzazione, si debba guardare all'Italia e a quello che l'Italia è stata capace di fare in questi anni e fa tuttora. L'acciaio è un settore di eccellenza in Europa. Siamo i secondi d'Europa per produzioni globali e i primi per produzione da forno elettrico. Riusciamo a mantenere un settore vivo e vitale nonostante l'Italia non rappresenti per noi alcun vantaggio competitivo naturale. Non abbiamo materie prime, l'energia è cara e quindi evidentemente i siderurgici italiani gestiscono bene le loro aziende. E poi le dico una cosa, quando vedo gli imprenditori fratelli, amici, colleghi di Modena, di Bologna, che non versano una lacrima davanti alle loro fabbriche disintegrate, pensano soltanto a quanto si possa fare per ricostruirle il più rapidamente possibile e per mantenere le quote di mercato. Questo è un esempio non solo per l'Europa, è un esempio per il mondo. Un esempio per l'Europa, un esempio per il mondo. Questo tema della salvaguardia dell'industria manifatturiera italiana, qualcosa lo citava anche lei. L'espressione forse più limpida è anche il fatto che gli imprenditori italiani mediamente devono avere a che fare con un ambiente per così dire ostile, consenta la battuta. Lei citava il prezzo dell'energia, che è un classico esempio per quanto riguarda la vostra industria. Sì, soprattutto per le industrie manifatturiere di base, la mancanza di materie prime e il costo dell'energia sono fattori evidentemente negativi, compensati con una forte intensità, con una forte capacità di adattamento e di innovazione, che rappresenta un'altra straordinaria caratteristica dell'industria manifatturiera italiana, che ci viene guardata con ammirazione. Poi non sempre l'ammirazione si traduce in proclami, no? Perché qui stiamo ragionando di battaglia competitiva e quindi il fatto di essere competitivi inevitabilmente preoccupa chi è meno competitivo di te. Ma certamente queste caratteristiche esistono, vanno salvaguardate, potenziate e valorizzate in tutti i modi possibili. Al governo io ho improntato la mia relazione dicendo: diciamo cosa noi possiamo fare per il paese prima che quello che il paese può fare per noi. E ho citato un dato che è straordinario: i siderurgici tra il 2008 e il 2011, contemporaneamente a una caduta globale degli investimenti fissi italiani, hanno aumentato i loro investimenti fissi nelle loro aziende, hanno investito più di 5,5 miliardi in attivi fissi, quindi in impianti, in innovazione tecnologica, in ricerca e sviluppo, in ambiente, 1 miliardo di questi 5,5 dedicato all'ambiente, per rendere la nostra industria sostenibile nel lungo periodo. Ecco perché questo è il compito degli industriali. Agli industriali si deve chiedere di investire nelle loro aziende. Semmai il luogo comune, famiglie ricche, imprese povere, si è verificato, certamente questo non lo si può dire alle nostre imprese, che hanno investito addirittura in controtendenza, quando il resto dell'industria manifatturiera italiana calava rispetto agli investimenti. Lei parlava di questioni di come rendersi competitivi. In questo l'Europa ha un ruolo centrale e da quel che si capisce e da quel che si legge nella sua relazione, il ruolo che ha avuto l'Europa fino adesso è stato in realtà un ruolo negativo, cioè la protezione che ha offerto all'industria europea, in particolare per quanto riguarda il vostro settore, ma non solo, penso anche all'agroalimentare per certi aspetti, non è stato un granché. C'è un grande problema di vision. Il grande problema europeo è stato quello di non essere capaci a comprendere e a reagire all'economia globalizzata. O meglio, di farlo con proclami un po' retorici, servizi, finanza, innovazione, dimenticandosi che la più grande concentrazione industriale del mondo era qui. E che quindi, certo che bisognava fare anche innovazione tecnologica, servizi eccetera, ma servizi e finanza senza industria non vanno da nessuna parte. Quindi una mancanza di vision, una grande retorica vuota come tutte le retoriche, un'incapacità di riconoscere i valori là dove erano. E se c'è un merito di questa crisi, il merito è che anche i più malati di monetarismo e di finanza riscoprono che l'industria manifatturiera è un valore da proteggere. Questo a livello più generale sull'Europa. Poi c'è il livello più concreto, cioè la mancanza di dazi. Sì, beh, io ho citato questo esempio nella mia relazione che è clamoroso. Noi chiediamo da molti anni all'Unione Europea di proteggere l'unica miniera a disposizione dei siderurgici europei, che è quella del rottame prodotto in Europa, e di proteggerla dai riders, dalle scorribande che turchi, americani, persino cinesi vengono a fare in Europa portandoci via il nostro rottame, e chiediamo di farlo con un dazio all'esportazione che sarebbe perfettamente giustificato tenuto conto del fatto che noi per produrre quell'acciaio che poi diventa rottame paghiamo le CO2 e nessun altro mondo esterno all'Europa paga quella tassa, e quindi ci limitiamo a dire mettete una tassa all'esportazione pari alla CO2 che noi abbiamo pagato su quel rottame. Sempre di no, ci hanno detto, e il fatto paradossale è che alla fine del 2011 la Russia, entrando nel WTO, ha chiesto correttamente all'Unione Europea di rivedere tutti i trattati che prevedevano, ad esempio, quote all'esportazione di acciaio russo in Europa che non sono più compatibili con il regime dell'Organizzazione del Commercio Mondiale, e però hanno chiesto di mantenere un dazio all'esportazione del rottame. Loro che sono ricchi di qualunque tipo di miniera hanno protetto e hanno ottenuto di proteggersi anche sulla miniera di rottame. L'Europa ha consentito ai russi ciò che non consente ai produttori europei. E, come diceva mia nonna, mi viene da dire che Dio acceca chi vuole perdere. Grazie, grazie anche per questo esempio, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, per averci concesso il suo tempo. Grazie e buonasera. Chiudiamo così questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a questa sera Roberto Scaltritti in regia. Grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.